America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, la riforma fiscale è ormai legge, è passata alla Camera, è passata al Senato con 51 voti a 48, quindi anche abbastanza bene. Manca a questo punto soltanto la firma di Trump, capiterà nei prossimi giorni, ed è questo il regalo di Natale che ha promesso il presidente. È una vittoria importante dei repubblicani, ma non entro nei dettagli, li conoscete già, i dettagli sono gli stessi, le aliquote, i vantaggi, gli svantaggi, e sul piano politico ne parlerò con l'ospite in trasmissione. Oggi voglio parlarvi d'altro. Spesso qui su America 24 vi ho dato anticipazioni di film o spettacoli americani, e dunque oggi, nella carrellata tematica che voglio fare in prossimità della chiusura, vi do un'esclusiva: musica classica di apertura, un colpo di pistola, un assassinio in America che ci tocca da vicino e che dal 18 gennaio sarà su FX, sugli schermi americani, nella serie Crime Story, 8 puntate. Sono andato l'altra sera all'anteprima a New York, nell'East Village. Sentiamo. Il colpo di pistola è a Miami il 15 luglio 97, 20 anni fa, alle 8:45. Uccide Gianni Versace. Aveva 50 anni, tornava dall'edicola dove aveva comprato dei giornali, cade per strada davanti al cancello della sua splendida villa casuarina su Ocean Drive, leggendaria la musica classica e simbolica di una vita vissuta in grande raffinatezza anche culturale. I make a movie of my book. You must design the clothes. You have to. You, from Milda, think of it. She was a fashion icon. It would be perfect. You know, she had 3,000 pairs of shoes. Ecco, da questo dialogo che ascoltiamo, Versace, che è interpretato da Edgar Ramirez, parla con il suo assassino Andrew Cunanan, un dialogo che avviene anni prima naturalmente, e questo signor Cunanan è un tossicodipendente, e sappiamo che i due si erano conosciuti anni prima in un nightclub, e nella prima puntata appaiono anche disperati Donatella Versace, interpretata da Penelope Cruz, e Santo Versace, il fratello, che appunto arrivano disperati. È girato bene, 8 puntate che ricostruiscono la personalità dell'assassino, le sue deviazioni psichiche, le sue debolezze. Sarà anche in Italia su Fox Crime. Ma questa storia mi tocca molto da vicino perché quel giorno, il 15 luglio del 97, appunto 20 anni fa, fu l'IMC, l'agenzia che avevo fondato a New York, a dare l'esclusiva mondiale. Ma l'ANSA, che era il nostro cliente insieme al gruppo Sole 24 Ore, ma l'ANSA era l'agenzia. E dunque abbiamo avuto questa notizia grazie a una fonte che ci aveva allertato, Julian Selmi, allora il direttore dell'ANSA, oggi il presidente dell'ANSA, e fece a sua volta notizia perché andò in serata al TG1 che raccontava di questo scoop di un'agenzia italiana, l'ANSA, in terra americana, cosa non comune. Oggi, con cellulari, internet, beh, mi domando, sarebbe stato possibile fare uno scoop? E ho con me ai microfoni di America 24 Maurizio Molinari, collega, amico, direttore della Stampa, al quale giro questa domanda. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Mario. Insomma, Maurizio, i tempi sono cambiati, tu sai cosa ha fatto l'IMC, faceva lavoro d'agenzia, lo fa in parte tuttora. Noi abbiamo avuto questa notizia che è rimasta ferma, tra l'altro, questa è la cosa interessante, perché quando noi l'abbiamo data nessun altro ancora ce l'aveva, solo dopo poche ore è venuta fuori, per cui a Roma, meno male, ce l'hanno anche gli altri, perché non si capiva se ci fosse o meno una conferma ufficiale. Oggi sarebbe impossibile. Ma l'IMC per noi corrispondenti in America è stato un compagno di viaggio agguerrito, un competitor sempre presente sulle notizie dal quale dovevamo costantemente guardarci. Certo, il duello sugli scoop nell'era della carta stampata è stato in qualche maniera indebolito dall'avvento del digitale, se non altro perché quando oggi abbiamo una notizia il primo posto dove finisce sono i siti web, il digitale. Resta invece la sfida per avere grandi storie in competizione fra i grandi giornali. Cosa farebbe comodo a te come direttore avere da un'agenzia? Ma io credo che il lavoro delle agenzie oggi sicuramente è l'approfondimento, dare dettagli su storie che si conoscono. Gli scoop vecchio stile continuano a esserci, i giornali sono in grado a volte di farli, come ad esempio è capitato alla Stampa negli ultimi 10 giorni anticipando la decisione di Putin del ritiro dalla Siria. ma vengono sempre più raramente dal network tradizionale, vengono da singole fonti che i giornali possiedono. Una tua riflessione sulla riforma fiscale, su Trump, personaggio controverso. La riforma fiscale va incontro a un bisogno naturale dell'economia di avere meno tasse e più investimenti. Il fatto che tutto ciò coincida con una stagione nella quale ogni mese l'America somma 200.000 posti di lavoro in più e che vede la Yellen, il capo della Federal Reserve, passare il timone al successore Powell decidendo l'aumento dei tassi, cioè, ovvero avvalorando la lettura di un'economia in crescita, conferma come l'America resta la locomotiva economica del mondo libero. Ecco, e quindi diciamo ne dai una chiave positiva, magari dovremmo averla anche noi, una manovra di questo genere che fa da stimolo per l'economia, che dici? Assolutamente, è chiaro che alcune delle obiezioni sollevate dai leader democratici sul peso economico sono interrogativi legittimi ed è giusto che il Congresso ne discuta, ma non c'è nessun dubbio che la formula di fondo dei repubblicani di Trump, abbassare le tasse per favorire gli investimenti, resta al momento quella, a mio avviso, più vincente. Ecco, sul piano internazionale, tu sei stato corrispondente da Gerusalemme, dal Medio Oriente, c'è stata questa decisione accolta da molte polemiche su Gerusalemme. Qual è la tua posizione? La reazione più interessante al suo passo di riconoscere la città capitale di Israele è venuta dall'Arabia Saudita, con un basso profilo che l'ha accomunata agli Emirati Arabi, al Bahrain, il Kuwait e lo stesso Qatar. La realtà vera è che i paesi sunniti che fanno capo all'Arabia Saudita non hanno protestato per questa decisione. In realtà è esattamente il processo che Trump vuole far emergere, ovvero una crescente convergenza fra Israele e i paesi sunniti nella regione attorno a uno schema teso ad arginare l'egemonia iraniana. Bene Maurizio, allora siamo vicini alla chiusura dell'anno, tra l'altro su America 24 calerà il sipario. Guardando in avanti, come ti vuoi congedare anche dai miei ascoltatori che spesso ti hanno ascoltato qui su questa trasmissione? L'anno che si chiude è stato un anno di trasformazione della storia su più fronti, dagli Stati Uniti all'Europa, e credo che quello che entra, guardando soprattutto alla rielezione di Putin e quanto avverrà in Siria e in molti paesi europei, a cominciare dall'Italia, segnerà un'ulteriore accelerazione di questo processo. Per questo credo che noi avremo bisogno in futuro dell'esperienza, del bagaglio di avventure, di capacità di trovare le notizie e anche di coraggio che ha distinto in questi anni i reporter dell'agenzia EMC come di America 24. Bene, come dice Maurizio Molinari, l'anno volge al termine, ma i fatti del mondo passano e continueranno a passare per questa sponda atlantica, dove sorgono mille altri approfondimenti, idee, momenti di tensione forte, frontiere inesplorate. Scrivetemi su Twitter @MarioPlatero ed eccoci alla canzone del giorno. Maurizio, a te la scelta della canzone natalizia, mi raccomando, perché siamo ancora in pre-Natale. Ma non posso non pensare a Frank Sinatra e al suo Silent Night. Silent Night di Frank Sinatra. Silent Night, è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.